Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Vaga randagia nella notte di una Los Angeles ubriaca. Barcolla sui tacchi rotti in una Las Vegas insonne. Si sveglia di soprassalto nella Bowery newyorkese tra un coro di barboni stonati e una fanfara di rottami impazziti. L'America che Tom Waits ci racconta è un'altra America. Quella romantica di Kerouac, quella bastarda di Bukowski, quella onirica di Francis Ford Coppola e quella stralunata dei film di Jim Jarmusch. Let's put a new coat of paint on his lonesome old town. Gommista, cecchino, barista, arbitro di box, piazzista di parrucche, acclappiacani. Con ogni probabilità lui vi racconterebbe di essere stato questo e molto altro durante i suoi 64 anni di vita. Ma ciò che noi sappiamo con certezza è che Tom Waits è stato ed è un artista. Cantastorie controcorrente nei 70, voce fuori dal coro negli 80, avventuriero musicale nei 90, icona della Rock and Roll Hall of Fame oggi. Considerato dalla critica uno dei maggiori musicisti del Novecento, Waits, con la sua musica fuori dai generi e il suo personaggio fuori dal tempo, da quasi mezzo secolo dissacra, commuove, spiazza, ululando come un cane zuppo di whisky, sussurrando come un poeta, strillando come il giullare dell'Apocalisse. Penso che la cosa che mi chiedono più di frequente è, voglio dire, accade abbastanza spesso da ricordarmene. Un sacco di gente viene da me e mi dice: Tom, è possibile per una donna rimanere incinta senza avere un rapporto fisico? La mia risposta è sempre la stessa. Ascolta, dobbiamo andare indietro fino alla guerra civile. A quanto pare una pallottola vagante perforò il testicolo di un soldato nordista e andò a conficcarsi nelle ovaie di una ragazza di 18 anni che era a 30 metri da lui. Beh, lei stava bene, era molto felice, zero sensi di colpa. Ovviamente al soldato un po' gli giravano. In effetti è una forma di rapporto fisico, ma non per tutti. Per chi ama l'azione, forse. What made my dream so hollow? I was standing at the depot with a steeple full of swallows that could never ring the bell. Oh, I've come 10,000 miles away. Figlio unico di due insegnanti, lei norvegese, lui scozzese e irlandese, Thomas Alan Waits nasce a Pomona, cittadina della contea di Los Angeles. Dopo il divorzio dei genitori, trascorre l'adolescenza con la madre a San Diego, dove, sedicenne, lavora come lavapiatti al Napoleon Pizza House. Nel frattempo, fa consumare al jukebox i dischi di Ray Charles, Frank Sinatra e Johnny Mercer. Nel tempo libero scrive poesie e frequenta i club di San Diego dove si suona dal vivo e quando una sera assiste a un concerto di James Brown ne resta folgorato. Nei giorni successivi comincia a farsi strada in lui la folle idea, o meglio il desiderio pungente che a uscire dal vecchio jukebox della pizzeria sia la propria voce. Le poesie diventano presto canzoni e il passo da lavapiatti a pizzaiolo è breve quanto quello da spettatore a cantante del San Diego Heritage Club. All'inizio sono timide cover anni 40 e 50 strimpellate da autodidatta su una chitarra folk, ma nel giro di poco il giovane californiano domina il palco e il pianoforte, cantando brani tutti suoi. Never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I Siamo nei tardi anni 60. Il palcoscenico culturale americano è occupato dal movimento hippie e tutti gli aspiranti cantautori devono qualcosa, o magari tutto, a Bob Dylan. Waits invece è un tipo diverso, fuori dal giro e fuori dal tempo. Mentre i suoi coetanei si procurano chitarre elettriche e improvvisano gruppi rock nelle cantine, lui cerca un modo per battersi col pianoforte senza prenderle ogni volta. Secco come un chiodo, porta giacche e pantaloni di due taglie in meno, tatuaggi da bandito sulle braccia, scarpe a punta e un borsalino alla Sinatra calato sugli occhi. Tom Waits è un teenager decisamente diverso dai fricchettoni che pascolano per i parchi d'America. Jack was in poker faces with bullets back with bitches. Neil hunted at the wheel, putting everyone in stitches. Bragging about some nursery screwed while driving through Nebraska. When she came, she honked the horn and Neil just barely missed the truck. L'immaginario del giovane musicista è quello degli anni 50, descritto dall'autore del romanzo Sulla strada. Un sogno rarefatto, popolato da beautiful losers, troppo impegnati a vivere la vita al massimo per preoccuparsi del futuro. Tom si è letteralmente scolato tutto Kerouac e si è ritrovato ubriaco della mitologia beat. Così scrive l'amico giornalista Patrick Humphreys. Intanto Tom se ne va da San Diego e le calde notti della West Coast lo portano sulle strade e sui palchi della California, all'inseguimento del fantasma di Jack Kerouac, cui dedicherà la canzone Jack and Neil, California, Here I Come. Ma in California c'è un altro uomo che si cimenta con macchine per scrivere e bottiglie, e le sue parole colpiscono alle tempie e alla bocca dello stomaco. Dove ci sono i papponi neri, le prostitute, la musica, i jukebox che suonano nei bar, è lì che esiste la vita. Alla maggior parte delle persone potrà sembrare un genere di vita terribile, ma quando entri in uno di quei posti e ti siedi al bancone e il barista ti serve da bere, tu sei felice perché sei in un luogo vivo, un luogo dove sta accadendo qualcosa. Il primo magnifico destino di Tom Waits è Charles Bukowski, che in più occasioni il cantante definirà uno degli scrittori più importanti della narrativa moderna. Mio padre trascorreva molto tempo nei bar e così io ero attratto da posti come quelli, i bar bui in cui lui beveva nel pomeriggio. Quindi suppongo che sia iniziata così la mia relazione con Bukowski. La prima cosa che mi ha agganciato a lui è il fatto che scrivesse di gente comune, gente di strada, spingendosi negli angoli bui dove gli altri non sembravano voler andare e di cui tantomeno avevano intenzione di scrivere. Ed è proprio di quei luoghi e della fauna che li abita che scrive il giovane Waits. Quelle storiacce al whisky sputate in faccia a uno sconosciuto più ubriaco di te e che probabilmente non sta ascoltando te, ma il vecchio jukebox, sono le stesse che racconta lui nelle sue canzoni. Sia lui che Bukowski raccontano l'America dei perdenti, ma se nei brani del cantautore i personaggi si muovono in un sogno americano incrinato, ammaccato e già coperto di polvere, nelle pagine dello scrittore la situazione peggiora impietosamente. Il sogno americano diventa uno squallido incubo urbano popolato da mostri con lo stomaco gonfio d'alcol, l'anima sfregiata da sogni infranti, il volto segnato da un orrido sorriso. Avevo, non so, forse 21 anni e vivevo in un piccolo appartamento a Silver Lake con mio padre. Un giorno sulla LA Free Press lessi Taccuino di un vecchio sporcaccione di Bukowski e pensai, ma questa roba è grandiosa. Questo tizio è lo scrittore del secolo ed è pubblicato in questa rivistaccia gratuita che trovi per strada. Mi sembrò triste e poetico al contempo. In un certo senso era perfetto per uno come lui essere lì su quello straccio da marciapiede. E naturalmente ti senti come se lo avessi scoperto tu, come se non fosse stato lui ad arrivare a te, ma tu ad aver scavato fino a trovarlo. E in effetti il Tom di questi anni è impegnato in una ricerca profonda, come ricorda il suo produttore Bones Howe. A quei tempi Tom aveva questa grossa Cadillac vintage, i cui sedili posteriori erano occupati da una montagna di libri e riviste, che arrivava fino al tettuccio. Era costantemente impegnato a tracciare un percorso letterario parallelo a quello musicale. E credo che non sia difficile trovare queste influenze letterarie disseminate lungo la strada della sua carriera. Poi, dopo 5 lunghi anni, quel magnifico incontro nato fra le righe diventa realtà. Tom e Charles condividono lo stesso palco. È il 12 marzo del 76, siamo a Pittsburgh, e lo scrittore poeta chiude il concerto del cantore dei bassifondi con un reading. Oh, my friends are married, every Tom and Dick and Harry. You must be strong if you're to go it alone. Here's to the bachelors and the Bowery bums. Those who feel that they're the ones that are better off without a wife. Il concerto di Pittsburgh è sold out. Lo show incredibile, il pubblico in delirio. Ecco il ricordo di Chip White, il batterista che suonò con Waits quella sera. Allora conoscevo poco Tom e non avevo mai letto Bukowski. Tom mi dà un paio dei suoi libri e dice: «Dacci un'occhiata e capirai chi sono e da dove vengo». Il giorno del concerto finiamo di suonare e Bukowski si presenta sul palco con un piccolo frigo pieno di birre e comincia a sgolarsene una dopo l'altra senza dire una parola. A un certo punto qualcuno del pubblico grida: «Ehi amico, ma di qualcosa!» Bukowski gli risponde con un rutto e poi comincia a leggere una poesia. Waits invece disegna così il Bukowski di quella serata. Era come un grosso orso. Aveva questa testa enorme, come il testone di Frankenstein. Aveva una presenza voluminosa, spalle larghe e una faccia che sembrava una maschera di carnevale, una maschera da mostro. Ero affascinato da lui, rapito. Per me era come un mentore, sì. Se l'aspetto di Bukowski è quello di un orso grottesco, la voce di Waits, a dispetto dei suoi 26 anni, ha l'aspetto di un rugginoso motore grippato sul punto di esplodere. È appena uscito il suo terzo album da studio, intitolato Small Change, che in inglese significa spiccioli, ma anche piccolo cambiamento. La stampa americana saluta la nuova voce di Tom, sprecandosi in epiteti coloriti e similitudini anche piuttosto creative. Per la rivista Rolling Stone, la sua voce contiene abbastanza catrame da asfaltare un'autostrada. Per Face, è una terribile miscela di ingredienti atroci, tutti con un disperato bisogno di radersi. Per Spin Magazine, è un suono che potrebbe tranquillamente guidare le navi attraverso la nebbia. Tom la vede in tutt'altro modo. Beh, non esageriamo. Ora, la mia voce è come un clacson. Un clacson che usi quando giri a piedi. Quando lo suono, i bambini scappano e la gente mi cede il posto al bar. Cosa potrei chiedere di più alle mie corde vocali? I've seen the Brooklyn Dodgers. They're playing their bits for you. I've seen a Kentucky doorbell too. But nowadays it's fast women and slow horses. But I'm reliable sources. I'm gonna be holding up this lamppost, so if you wanna know. Small Change è il disco della piena maturità di Tom Waits e viene accolto dalla critica americana ed europea come un capolavoro. E malgrado il suo autore lo promuova suonando praticamente ovunque negli Stati Uniti e in Europa, le radio non passano le sue canzoni, né tantomeno le suonano i jukebox, e il disco non vende come dovrebbe. Il problema è che anche stavolta, come ai tempi degli esordi, l'attenzione del pubblico è puntata in un'altra direzione. In America a dominare le classifiche sono i Bee Gees e nel vecchio continente è appena scoppiata la Molotov dei Sex Pistols. Se 10 anni fa Waits era un giovane volutamente fuori moda, oggi è un musicista accidentalmente controcorrente. Ma naturalmente Tom prosegue per la sua strada senza farsi troppi problemi e senza alcun aggiustamento di tiro. Il tour europeo giunge al termine e lui torna in California dalla fidanzata, la cantante blues Ricky Lee Jones, e si mette a scrivere parole e musica alla sua solita maniera e con il suo personalissimo inconfondibile stile. So buy this fool some spirits and libations. It's these railroad station bars. L'anno successivo esce per Asylum, la casa discografica che lo pubblica dal debutto, un nuovo album che però suona un po' fiacco. Foreign Affairs contiene un paio di belle canzoni. La toccante Burma Shave e il riuscito duetto con Bette Midler I Never Talk to Strangers. Ma mancano le atmosfere in cui Small Change era immerso e latitano anche le intuizioni che infondevano in quegli 11 brani la scintilla della poesia. Così, nella penultima primavera degli anni 70, il musicista di Pomona si alza dal seggiolino del pianoforte e imbraccia una chitarra elettrica. Il disco che ne esce, Blue Valentine, è più sanguigno del precedente, ma ancora poco apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. Patrick Humphries, forse sorpreso o deluso dalla piega più elettrica del disco, arriva addirittura a scrivere: per la prima volta ho avuto la sensazione di ascoltare qualcosa di già sentito. Nonostante gli sforzi, Waits non è riuscito a impedire a Blue Valentine di suonare come una sorta di parodia di Tom Waits. Humphries esagera, ma una cosa è certa. Il 31enne Waits in quei giorni non se la passa alla grande. La relazione con Ricky Lee Jones è finita e il futuro della sua musica a questo punto non è poi così limpido. Se hai intenzione di provarci, vai fino in fondo. Altrimenti non cominciare neanche. Questo può significare perdere fidanzate, mogli, parenti e forse anche la ragione. Potrebbe significare non mangiare per 3-4 giorni. Potrebbe voler dire congelare su una panchina del parco. Potrebbe voler dire galera, derisione, scherno, isolamento. L'isolamento è il dono. Tutto il resto serve a mettere alla prova la tua resistenza, a testare quanto tu vuoi veramente farlo. E lo farai, malgrado i rifiuti e le peggiori previsioni. E sarà meglio di qualsiasi cosa tu possa immaginare. Se hai intenzione di provarci, vai fino in fondo. Non c'è nessun'altra sensazione simile. Sarai solo con gli dèi e il fuoco incendierà le tue notti. Cavalcherai la vita dritto verso la risata perfetta. È l'unica battaglia che valga la pena combattere. I magnifici destini. Estate 1979, da qualche parte, a Los Angeles, California. Un vecchio ventilatore soffia aria umida cigolando furiosamente. Fuori scroscia pioggia calda, da ore. Una giovane coppia di zanzare, entrambe originarie delle sponde del Los Angeles River, ha appena trovato riparo nell'appartamento passando attraverso un buco nella zanzariera. E ora, per impressionare lei, il maschio si getta ripetutamente in picchiata verso l'orecchio dell'essere umano steso sul letto. L'essere umano è sveglio e a impedirgli di dormire non sono i rumori che lo circondano, ma i pensieri che affollano la sua testa. Quell'essere umano è Tom Waits e non è esattamente al top della forma. I suoi dischi non vendono abbastanza. Lui beve troppo e gli anni 70 tramontano proiettando una lunga ombra di incertezza sul suo futuro. Il destino però ha in serbo per lui un magnifico incontro. Stop me if you've heard this one. I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken. But it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just yesterday. Besides, I never. Sempre estate, sempre 1979, da qualche parte, a Hollywood, California. Il regista del Padrino e Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, ha appena sentito il duetto di Tom Waits con Bette Midler. La sua ricerca è finalmente terminata. Decide che vuole lui, Waits, per comporre le canzoni che faranno da ossatura al suo musical. Meno di una settimana dopo, Coppola gli fornisce un ufficio con pianoforte e Tom, ogni mattina per i successivi 2 anni, si veste, si rade, infila un vestito e va a lavorare. 2 anni, avete sentito bene? Tanto serve al cineasta italo-americano per scrivere la storia musicata che vuole raccontare, darle una forma nel mondo reale e imprimerla sulla pellicola. Fino ad allora scrivere musica era qualcosa che facevo quando avevo bevuto e non ero affatto sicuro di essere in grado di farlo come un artigiano sa fare il suo mestiere. Prendere parte a qualcosa di molto grande mi ha reso più responsabile e disciplinato. La scrittura del film segue di pari passo quella delle canzoni e così Coppola e Waits lavorano a stretto contatto per molto tempo. Il produttore musicale Bones Howe, colui che lo segue fin dagli esordi, spiega a Tom: musica e immagine devono esistere l'una per l'altra, come dice Francis. A volte sarà la musica a guidare le immagini, altre volte il contrario. Devi mantenere la musica fluida. La musica di One from the Heart, questo è il titolo del musical di Coppola uscito in Italia come Un sogno lungo un giorno, alla fine risulterà ispirata e la voce rugginosa e impolverata di Tom si unirà meravigliosamente a quella purissima e angelica della cantante, Crystal Gayle. Here comes the bride, and there goes the groom. Looks like a hurricane went through this room. Smells like a pool hall. Where's my other shoe? And I'm sick and tired of picking up after you. Molti registi fanno recitare Tom Waits nei loro film, da Robert Altman a Terry Gilliam, ma il primo a intuirne il potenziale attoriale sarà proprio Coppola. Il cineasta darà un piccolo ruolo a Waits nel suo film successivo, I ragazzi della 56esima strada, e nei due dopo, Rusty il selvaggio e Cotton Club. Tom tornerà a recitare per lui nel Dracula del 1992 e nel 2011 come voce narrante del film Twixt. Il legame tra i due artisti non è solo professionale, prima di tutto è fondato su grande stima reciproca. Lo conferma lo stesso Tom. Oh, Francis è un imbroglione, un imbonitore, un piccolo dittatore, un pennuto esotico, un maestro di scuola, una ballerina, un magnaccia, un pagliaccio, un presidente, un collezionista di immondizia. Sa come preparare degli ottimi spaghetti, oh, è assolutamente italiano. Francis Ford Mussolini, lo amo teneramente. Ma la persona di cui Tom si innamorerà per davvero e perdutamente è una sceneggiatrice che incontra negli uffici di Coppola. Si chiama Kathleen Brennan e diventerà la sua compagna nella vita, come moglie e madre dei suoi tre figli, e nel lavoro, come coautrice di tutte le sue canzoni. Sì, perché da quel momento in poi, se il padre della musica waitsiana è Tom, la madre è certamente Kathleen. Le storie raccontate nelle loro canzoni sono favole urbane, ciniche, bizzarre, ironiche, a tratti inquietanti e illuminanti. Ogni canzone è diversa. Sono come uccelli che lasci liberi. Alcuni scompaiono nel cielo, portati via dal vento, altri tornano indietro, altri attraversano l'oceano. Certe volte è come un naufragio con le cose che galleggiano attorno a te. Alcune canzoni affondano, altre restano a galla. Ma se vuoi sapere la verità, la cruda verità, è che alla maggior parte delle canzoni devi dare una botta in testa, trascinarle dentro casa, scuoiarle, macellarle e cuocerle. In linea generale penso alla mia musica come al tabasco. Puoi usarlo per il pesce, per la cacciagione, per il pollame. Alla fine io ascolto le mie canzoni solo per capire se sono pronte. Dopodiché le porto fuori strada e le lascio libere. Alcune tornano e rimangono con me, altre scompaiono. Gli effimeri anni Ottanta sono cominciati e mai come ora Tom è fuori dai giochi con la sua musica e il suo mondo fuori moda. Ma c'è qualcosa che sta per succedere dagli Waits, qualcosa che scuoterà tutta la casa, dalle fondamenta alle tegole del tetto. Nell'album Swordfish Trombones, Tom ci va giù pesante. È tutto un altro modo di fare musica rispetto a quello che ha scritto, cantato e suonato finora, tanto che i suoi discografici decidono che non è proprio roba che fa per loro e rompono il contratto stipulato 10 anni prima. Tom e il suo strano disco vengono istantaneamente accolti a braccia aperte dalla ben più coraggiosa etichetta inglese Island, dove hanno già trovato casa Brian Eno, Bob Marley, gli U2. È l'inizio di una nuova era waitsiana e il giornalista Humphries, che potremmo ormai definire un ex fan di Tom, questa volta non è solo deluso, ma sconvolto. Il suo commento è laconico quanto netto. Swordfish Trombones è sconcertante. Ma non tutti reagiscono male all'uscita del nuovo album di Waits. Il cantante Elvis Costello è più loquace al riguardo. Quando uscì Swordfish Trombones pensai che si trattasse di una mossa molto coraggiosa. Penso di essere stato invidioso non tanto della musica, quanto dell'abilità di Tom nel riscrivere se stesso al di là della parte che sembrava dovesse definitivamente appartenergli. È stata una cosa coraggiosa e penso che chiunque non riesca a riconoscere la qualità di quella musica non abbia davvero le orecchie a posto. Il 1985 è l'anno in cui esce l'ispiratissimo Rain Dogs, che include alcune delle più riuscite canzoni del nuovo, imprevedibile Tom Waits, ma è anche l'anno in cui il musicista torna davanti alla macchina da presa. Questa volta a dirigerlo è il cineasta più europeo d'America, Jim Jarmusch. E questa volta non è una piccola parte, ma il ruolo di protagonista insieme a John Lurie e Roberto Benigni nel film Down by Law. Buzz off. Is a sad and beautiful word. Buzz off. Buzz off. Good evening. Buzz off to everybody. Oh, thank you. Buzz off to you too. Oh, it's a pleasure. Thank you. Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. And send me off to bed forevermore. Humphries, intanto uscito dallo shock, comincia a raccapezzarsi riguardo al nuovo Tom Waits. Con Rain Dogs, Waits si conferma uno dei pochi veri innovatori musicali degli anni Ottanta. L'album è più accessibile del precedente e anche se può darsi che non riusciate ad afferrare tutte le parole e che la morale vi risulti un po' confusa, di sicuro si tratterà di una gran bella storia. Waits dà l'impressione di quei marinai irascibili e ubriaconi che ne hanno vista una più del diavolo, con le loro storie impossibili che potete ascoltare un po' al prezzo di un bicchiere. Ma quello che il giornalista Humphries non considera è che Tom, da quando si è trasferito da Los Angeles a New York con la moglie e il figlio, ha smesso di bere. Chi non ha affatto smesso di bere e strafare, invece, è un suo amico inglese molto noto, un chitarrista i cui accordi sono storia della musica. Il nostro cantastorie delle periferie dimenticate, padre adottivo delle filastrocche diseredate, degli strumenti fuorilegge, ha cambiato stile di vita e di musica. Tom Waits ha praticamente smesso di bere e ha ridotto drasticamente le sigarette. Se prima era difficile ingabbiare la sua musica in un genere, ora è decisamente impossibile. Gli inquilini che abitano le sue canzoni sono vecchi strumenti musicali che non esistono più, oggetti orfani e privi di nome, nati negli interstizi tra il reale e l'immaginario, proprio come i tromboni pesce spada, gli Swordfish Trombones. D'altro canto, anche il personaggio Waits ha subito un cambiamento. Da cagnaccio randagio, il vecchio Tom si è tramutato in una specie di sghignazzante pirata che dalla cima di un colle scaglia granate sonore sulla città che dorme. Waits ha interpretato con la propria persona e con la propria musica le storie di Francis Ford Coppola, Jim Jarmusch, Terry Gilliam, cineasti visionari e indomiti che, come lui, hanno intrapreso un viaggio senza mappa nell'anima dell'essere umano. Ora però, per avventurarsi ai limiti del mondo musicale conosciuto, il capitano Waits sceglie di avere a bordo un collega d'oltreoceano, il corsaro dei mari del rock e famigerata chitarra dei Rolling Stones, Sir Keith Richards. La leggenda dell'incontro professionale tra queste due creature mitologiche attribuisce l'idea alla moglie di Tom, Kathleen. E se in questo pezzo ci fosse la chitarra di Keith? Tu ami lui e quello che fa. Noi viviamo a New York, lui vive a New York. Perché non gli fai una chiamata? Oh, io bufonchio qualcosa, tipo... Lascia perdere, facciamo da soli. Poi qualche giorno dopo sono coi discografici per definire il nuovo album e mi chiedono, nessun ospite che ti va di avere sul disco? E io dico, che ne dite di Keith Richards? Io stavo scherzando, ma qualcuno l'ha prese sul serio e lo chiamò. Lui disse, ok, e io dissi, ora sì che siamo nei guai. Si presentò con un camion che conteneva 600 chitarre e un valletto. Eravamo in questi studi di registrazione enormi, soffitti alti e sale dalle dimensioni di campi da football. Quei posti li utilizzano per registrare le orchestre sinfoniche. Noi eravamo in cinque. Era abbastanza strano. Ma la cosa più surreale era che Kate le suonava tutte quelle chitarre. Sentivo che Kate avrebbe compreso ciò che avevo in testa e che volevo fare. È una persona molto spontanea, istintiva. Si muove come un animale strano. Un giorno cercavo di spiegargli come vedevo la canzone Big Black Maria, ma non riuscivo a farmi capire. Allora smetto di parlare e comincio semplicemente a muovermi in un certo modo. E lui, ma certo, perché non l'hai fatto subito? Ora capisco esattamente cosa volevi dire. Keith Richards torna a suonare per Tom qualche anno dopo in Bone Machine, disco che estremizza ulteriormente le sonorità waitsiane rendendole ancora più rumorose e disturbate, un po' come se uscissero da una vecchia radio che capta solo le frequenze che non cerchi e che ti dà la scossa ogni volta che la tocchi. Bone Machine varrà a Waits il primo Grammy Award della sua carriera e la canzone che chiude l'album è scritta, suonata e cantata da Tom e Kate. Il titolo è That Feel, quella sensazione. Sensazione che non puoi perdere, perché puoi perdere la camicia, i pantaloni, le scarpe, ma non quella sensazione. Puoi gettarla nella pioggia, bastonarla come un cane o abbatterla come un albero morto, ma lei, quella sensazione, non ti lascerà. Il magnifico destino che lega questi due artisti ha in serbo per loro altri incontri. La sei corde di Richards compare di nuovo in compagnia della voce di Waits nell'album Bad As Me del 2011 e con questa sarebbero già tre le volte se non fosse che nell'imminente disco Shenandoah i due vecchi amici si danno appuntamento per sbraitare assieme alcune canzoni tradizionali americane. Il 2011 è anche l'anno dell'ingresso di Tom Waits nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, che ospita i musicisti che hanno fatto la storia del rock, nomi che vanno da Chuck Berry a Jimi Hendrix, dai Doors ai Queen. Ma nonostante il successo e i riconoscimenti, Tom continua a mal sopportare certi meccanismi dell'industria musicale e televisiva, alle quali non ha mai fatto concessioni, né tantomeno sconti. Quella che non tollero è la parte in cui arrivano e ti dicono «Come lo vuoi il naso, Tom?» Abbiamo intenzione di rompertelo, aggiustartelo e spostare in su la guancia. Il labbro inferiore verrà asportato completamente. Avrai soltanto il mento e i denti, ma vedrai che troveremo un modo di farti sembrare a posto. Adesso, Tom, ti radiamo la testa a zero, ti mettiamo degli orologi sul braccio e ti spediamo per un paio di giorni a Passaic, dove ti faranno delle fotografie. Che te ne pare, Tom? Beh, non saprei. A quel punto ti drogano, ti mettono in un'auto e ti risvegli all'inferno, di fianco al letto di Elvis, che ti guarda, scuote la testa e con quel suo sorriso beffardo dice «La risposta giusta era no, baby». No good, you say? Malgrado la piena libertà creativa concessagli, Tom si rifiuta di sottostare a regole commerciali che vedono un musicista intraprendere estenuanti tour per promuovere il suo prodotto. Così lascia la grande casa discografica Island per la piccola ma confortevole Epitaph, e i suoi concerti diventano eventi rari. Anche le comparizioni televisive si fanno sporadiche. Ho accompagnato mio figlio e la sua classe in gita. A un certo punto siamo entrati in un negozio di strumenti musicali. Naturalmente mi aspetto che da un momento all'altro qualcuno dei clienti mi riconosca. E così mi metto a passeggiare tra i pianoforti. Nessuno dei clienti mi vede. Vado nel reparto percussioni, dove trovo un'illuminazione abbastanza interessante, e mi metto in posa, ma niente. Mi aspettavo almeno un «Ma tu non sei quel tizio?» E invece no, nessuno mi nota. E decido di andare tra le chitarre e aspettare. Ma niente, ero piuttosto deluso. Una settimana dopo i ragazzi mi chiedono di portarli a visitare la discarica. E sai, l'impianto di riciclaggio? Io li accontento. E come arriviamo là, 20 uomini circondano l'auto prima ancora che io esca. Tutti mi conoscono alla discarica. Told me you were no good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me. Già, perché malgrado due Grammy, la consacrazione della Rock and Roll Hall of Fame e il fatto che tra i suoi fan ci sia una folla di colleghi che va da Bruce Springsteen a Nick Cave, da David Bowie a Norah Jones, per arrivare ai nostri Enrico Ruggeri e Vinicio Capossela, Tom Waits, a quanto pare, non ha ancora realizzato il sogno di quando era solo un ragazzo che lavava i piatti al Napoleon Pizza House, e cioè sentire la propria voce uscire da un jukebox. Nel film di Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, Tom e Iggy Pop si danno appuntamento in un bar senza essersi mai incontrati. Dopo uno stravagante scambio di convenevoli, i due musicisti bevono caffè senza parlare, finché Iggy rompe il silenzio. Ci vieni spesso qui? Sì, sì, ci vengo, spesso. Ah, no, te lo chiedo perché non hanno dischi tuoi nel jukebox. Ma se probabilmente non esiste un solo jukebox sulla faccia della terra che contenga una sua canzone, sicuramente c'è almeno uno stereo, un autoradio o un PC che prima o poi suonerà le sue singolari, straordinarie note. Most